falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quando oggi si parla di campi di concentramento, di lager, di sterminio di massa, di orrore su milioni di persone, naturalmente ci vengono in mente determinate cose. Se parliamo del Novecento, per esempio, i quattro grandi massacratori di persone a centinaia di migliaia: Stalin, Mao Zedong, Pol Pot e Hitler. Ma purtroppo tutto questo non è qualcosa che non esiste più. Nel mondo oggi, proprio nel momento in cui io vi sto parlando, ci sono moltissime persone che sono tenute in prigionia in terrificanti campi di concentramento senza il minimo rispetto delle più elementari regole sul trattamento dei carcerati, dei prigionieri politici, dei dissidenti, dei prigionieri di guerra. E non stiamo parlando di repressione sui delinquenti, su persone che hanno commesso dei reati, stiamo parlando di persone innocenti che non hanno fatto nulla di male, ma che molto semplicemente non concordano con il governo del loro paese, vengono considerati dei pericolosi dissidenti e vengono incarcerati. Quello che è ancora più terrificante è che esistono dei paesi dove a essere incarcerati nei lager non sono solo gli adulti, ma anche i bambini. Avete capito bene, bambini nati e cresciuti per tutta la vita e anche morti in un campo di concentramento. Oggi noi raccontiamo la storia di uno di questi bambini, l'unico recluso di cui si abbia notizia al mondo essere nato e cresciuto in un campo di prigionia ed essere riuscito a evadere e ad essere sopravvissuto. A chiedere questo personaggio siete stati in molti e noi abbiamo scelto uno di voi, si chiama Fabrizio Lazzano. Ciao Fabrizio. Ciao Enrico. E io non ho ancora detto come si chiama il protagonista della puntata, lo dico adesso, è Shin Dong-hyuk. Tu ci hai chiesto di Shin Dong-hyuk, perché Fabrizio? Perché mi ha colpito veramente in maniera incredibile la sua storia, ricca di tenacia. Di tenacia, ma anche perché apre una finestra, direi, su una realtà che noi conosciamo poco. Tu come l'hai scoperto? Io avevo letto qualche cosa sul giornale riguardo a questa storia incredibile. La mia curiosità mi ha spinto ad andare a comprare immediatamente il libro, perché sapevo che era uscito anche un libro sulla storia di questo ragazzo. E da lì è nato tutto, l'ho letto tutto d'un fiato e mi ha sconvolto. È un libro terribile. Fabrizio, ti ringrazio, spero che la puntata ti piaccia. Grazie ciao, mille Fabrizio. Anche a te Enrico, grazie. Ciao. Quindi il nostro protagonista è Shin Dong-hyuk, è un esule nordcoreano nato in un campo di prigionia della Corea del Nord, fuggito nel 2005 a 23 anni. Grazie a lui oggi sappiamo quello che succede all'interno di quei luoghi indefinibili, indescrivibili, creati dal governo comunista, dittatoriale della Corea del Nord. Il mio nome è Shin Dong-hyuk. Sono nato in un campo di prigionia nordcoreano e ho vissuto lì per i primi 23 anni della mia vita, fino a quando non sono riuscito a scappare. Deve essere fatto qualcosa con estrema urgenza per fare pressione alla Corea del Nord. L'oppressione deve finire. Quella gente deve essere salvata. Credo che oggi più che mai sia venuto il tempo in cui le Nazioni Unite e la comunità internazionale possano imporsi alla Corea del Nord. Le torture che ho subito, le cicatrici che porto sul mio corpo, il sangue che ho versato, tutto questo non sarebbe mai dovuto accadere. Non solamente nella Corea del Nord, questo non deve più accadere in nessun luogo. Ecco perché mi sono sforzato di trovare il coraggio e parlare davanti a tutto il mondo e mostrare alle telecamere il mio corpo che vorrei dimenticare e tenere nascosto. Le Nazioni Unite, insomma, raramente sono state all'altezza della situazione. Questa è la terribile presentazione di Shin Dong-hyuk, che dopo la fuga dal campo di prigionia ha raccontato al mondo quello che succedeva là dentro. I suoi ricordi sono diventati un libro scritto da Blaine Harden, Fuga dal campo 14, casa editrice Codice, ne parlava anche il nostro amico prima, e sono raccolte le interviste in un documentario realizzato dal tedesco Mark Wiese. Sappiate che sono racconti raccapriccianti, questa non sarà una puntata facile, però ci vuole coraggio per denunciare, e così per noi, insomma, ci vuole coraggio per raccontare, e noi lo facciamo perché va fatto e anche perché non lo fa nessuno. Prima di entrare nel vivo di questa storia, diamo uno sguardo veloce alla realtà della Corea del Nord. Magari non proprio tutti sanno esattamente cosa è successo, cosa sta ancora succedendo in quel paese. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale la Corea viene divisa in due stati: Corea del Sud, amministrazione degli Stati Uniti; Corea del Nord, in mano all'Unione Sovietica. Nel 50 si arriva a una delle fasi più acute della Guerra Fredda, perché la Corea del Nord invade la Corea del Sud. È un conflitto pesante, pericoloso sul piano internazionale, perché intervengono sia gli americani che i sovietici, ci sono 3 milioni di morti. Infine nel 53 si arriva a un armistizio che mantiene il paese diviso in due: la Corea del Nord con capitale Pyongyang e la Corea del Sud con capitale Seoul. Ma stiamo parlando di due posti lontani anni luce l'uno dall'altro. Perché mentre la Corea del Sud si evolve come paese, diciamo, normale, una repubblica presidenziale, una quarta economia dell'Asia, alto livello tecnologico e informatico, per la Corea del Nord la storia è completamente diversa. È uno stato totalitario, comunista, partito unico, che ha visto succedersi tre folli dittatori: Kim Il-sung dal 48 fino alla sua morte del 94, il figlio Kim Jong-il che muore nel 2011 e infine il figlio di quest'ultimo, quello che vediamo spessissimo in televisione, quello cicciotto con i capelli strani, Kim Jong-un, che è attualmente in carica. Quindi già insomma stiamo parlando di un paese teoricamente a ideologia comunista, in realtà feudale, perché nonno, padre e figlio si sono passati il potere. Le atrocità sono all'ordine del giorno. Secondo i rapporti di Amnesty International, il livello di rispetto dei diritti umani è uno dei più bassi del mondo, mentre è ai primi posti la Corea del Nord in fatto di corruzione. La popolazione vive in un isolamento politico, economico e sociale, e i nordcoreani sono uno dei popoli più brutalizzati del pianeta. In più il lavaggio del cervello è totale, fanno credere loro che il loro livello di vita sia il più alto del mondo, perché loro non sanno cosa succede al di fuori del loro paese. Non hanno ovviamente internet, non hanno accesso a nessuno degli organi di informazione, e loro pensano che il loro despota sia una divinità nata magicamente da una montagna. Vedete, poco comunisti anche da questo punto di vista. Credono che lui non vada mai in bagno perché è una divinità, quindi non può espletare funzioni corporali. Insomma, in un regime di questo tipo non c'è spazio per il dissenso, e quindi c'è la triste e diffusa realtà dei campi di prigionia. Ed è qui che nasce il nostro protagonista, Shin Dong-hyuk, che ci passa i primi anni, i primi 23 anni della sua esistenza da incubo. Il falco e il gabbiano. Shin Dong-hyuk, l'esule nordcoreano di cui stiamo raccontando la vicenda agghiacciante, nasce il 19 novembre dell'82 nel campo 14 di Kaecheon, che è un campo di internamento che si trova nascosto tra le montagne nella regione del Pyongan meridionale, a 80 km dalla capitale Pyongyang. Dalle notizie che si hanno, dai rapporti delle associazioni per i diritti umani, sembra che il campo 14 sia il più terribile dei campi di prigionia nordcoreani, campo di lavoro forzato costruito nei pressi delle miniere di carbone della zona, che impiega i prigionieri per l'estrazione del carbone, obbligandoli a turni di lavoro massacranti fin dalla più tenera età. E naturalmente i prigionieri sono sottonutriti, non esistono medici soffrono il freddo del rigido inverno, sono picchiati e torturati, la loro vita media non supera i 45 anni. In questi campi, di cui la Corea ha sempre negato l'esistenza, sono ben visibili però anche su Google Maps, e si stima che siano rinchiuse dalle 150.000 alle 200.000 persone in questo momento. E chi è dentro spesso non ha nessuna colpa, visto che la fetta più grande della popolazione carceraria è composta da figli e nipoti di detenuti. Eh sì, perché dovete sapere che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo dove esiste la cosiddetta legge delle tre generazioni, istituita nel 72 dal grande leader e presidente eterno Kim Il-sung, il nonno folle del folle che è a capo del governo oggi. Cos'è la punizione per tre generazioni? E purtroppo è quello che temete di aver capito. Se qualcuno commette un crimine, e per crimine si intende anche, non so, aver pronunciato male il nome del presidente, questo crimine deve essere punito per tre generazioni. Ecco perché nei campi ci sono così tanti bambini. Nascono lì e rimangono lì per tutta la loro vita. Shin Dong-yuk è nato nel campo 14 per colpa di due zii fuggiti a Seul al tempo della guerra. I miei genitori si sono conosciuti nel campo, tra le baracche. I loro rapporti sessuali erano un premio a cui solo i detenuti modello, quelli che lavorano sodo e producono tanto, avevano diritto. Una ricompensa per buona condotta. Ma non erano innamorati, non hanno mai vissuto insieme. E noi non eravamo una famiglia. Nel campo non esistevano famiglie, né amore, niente. Solo lavoro, torture e fame. Tanta fame. I detenuti scontano tutti la stessa pena, l'ergastolo. Vivono tutta la loro vita da schiavi in un luogo dove non esistono amore, pietà, famiglia, dove non esiste un rapporto tra le persone detenute, non possono formarsi amicizie, non può esserci solidarietà, perché c'è la legge della delazione. Fare la spia, denunciare, è quello che viene insegnato fin da quando sei bambino, perché facendo la spia ci si può guadagnare qualcosa, magari una razione di cibo. Siccome il problema più grande è quello che assilla i detenuti, quello che non li fa dormire, non è il lavoro, il freddo, le botte, le torture, il loro chiodo fisso è la fame. È una fame costante che non li abbandona mai in nessun momento della loro vita. Il mio problema più grande era la mancanza di cibo. Per i primi 23 anni della mia vita, nel mio piatto ci sono state solo due cose: minestra di cavolo e pasticcio di mais. Tre volte al giorno, 7 giorni su 7. Razioni così misere che se capitava che cadesse qualche goccia di zuppa sul pavimento, ci gettavamo a leccarla. Ogni tanto chiedevamo il permesso di prendere un topo. Se la guardia ci dava l'ok, lo catturavamo e lo mangiavamo. Beh, è naturale, se vuoi annientare la volontà delle persone basta affamarle. E i detenuti vengono cresciuti con il senso di colpa. Loro sono lì perché devono espiare le colpe dei loro padri, dei loro nonni, dei loro zii. E questa è una convinzione che viene inculcata fin dalla prima infanzia. E Shin Dong-yuk racconta che lui non si è mai domandato perché si trovasse lì. Nessuno glielo ha mai spiegato. Lui cresce pensando semplicemente che questo sia il mondo, che esistano persone nate con un fucile in mano e persone nate prigioniere. Praticamente è la trama di un film a metà tra la fantascienza e l'horror. E Shin Dong-yuk racconta che lui non aveva mai pensato di scappare perché era convinto che il mondo fuori dal campo fosse uguale a quello dentro. Shin Dong-yuk nasce e cresce nel campo 14, dove la vita è sempre uguale giorno dopo giorno, si lavora sempre 365 giorni all'anno. I bambini piccoli vengono lasciati soli durante il giorno perché le madri lavorano. Poi, appena sono più grandi, cioè verso i 3 anni, frequentano una specie di scuola dove iniziano il loro indottrinamento. A 6 anni entrano in miniera e devono lavorare come gli adulti, se no sono botte. Quello che insegnano è il minimo. Ovviamente non studiano né la letteratura né la storia o la religione. Lui non sapeva neanche, ha raccontato, che la Terra fosse rotonda, che esistesse l'universo. Il regime è sistematico nel far credere a questi detenuti nati e cresciuti lì che il mondo sia quello e solo quello del campo. C'è un unico momento che spezza la ripetitività ossessiva delle giornate, e ascoltate qual è questo momento, è un ricordo agghiacciante. Il mio primo ricordo, avrò avuto 4 anni, è un'esecuzione. Quel giorno ero con mia madre. Ci siamo infilati tra la folla. Io mi sono fatto largo tra le gambe degli altri detenuti per raggiungere la prima fila. Di fronte alle guardie con le armi puntate c'era un uomo legato a un palo. Per evitare che urlasse, magari maledicendo il governo, gli avevano riempito la bocca di sassi. Poi ricordo un paio di colpi, la morte dell'uomo e il silenzio. Al campo le esecuzioni erano sempre pubbliche e noi detenuti eravamo costretti a partecipare. Ma, a dire la verità, spesso le consideravamo un diversivo rispetto alla monotonia della vita che facevamo. Avete capito? Come noi andiamo al cinema a sentire un concerto, guardiamo la televisione, loro avevano le esecuzioni. E non c'è analisi critica nel ricordo di Shin Dong-hyuk, perché per i detenuti non solo quella è l'unica realtà, ma l'indottrinamento li ha portati a ritenere che sia giusto che i colpevoli vengano fucilati, anche se sono colpevoli di crimini minimi, come ad esempio rubare per fame. Una delle regole del campo dice: chi ruba o nasconde cibo viene ammazzato. Durante un'ispezione a scuola, un insegnante trovò in tasca di una mia compagna 5 chicchi di mais. Le ordinò di andarsi a mettere in ginocchio di fronte alla lavagna. Poi iniziò a picchiarla con una bacchetta. Noi bambini avevamo 9 anni a quel tempo. Ce ne stavamo lì a guardare. Dopo un po' la testa e il naso della bambina iniziarono a sanguinare, ma l'insegnante non smise, nemmeno quando lei crollò a terra svenuta. Io e i miei compagni la riportammo a casa trascinandola per le braccia. Morì durante la notte. E le regole del campo sono implacabili, e la più drammatica di tutte è quella che mette i detenuti uno contro l'altro. La delazione, fare la spia sempre e comunque per sperare in un piccolo premio, un po' di cibo, un po' di riposo in più. Chi non denuncia un tentativo di fuga sarà ucciso all'istante. Questo recita la prima legge del campo. E Shin Dong-hyuk se la ricorda bene. Così, quando sente sua madre e suo fratello parlare di fuga, il suo istinto di sopravvivenza lo spinge a tradire i suoi stessi familiari. A 13 anni ha fatto il suo dovere, quello che gli hanno insegnato da sempre, li denuncia. I due vengono giustiziati, la madre è impiccata, il fratello fucilato. Lui assiste senza provare nessuna emozione, anzi lui pensa che sia giusto così, pensa anche che, avendo fatto il suo dovere e avendo rispettato la legge del campo, gli spetti di diritto qualcosa, un regalo, un premio. Invece si sbaglia, non sa l'orrore che lo aspetta. Il falco e il gabbiano. Questa è una delle puntate più difficili della nostra trasmissione. Oggi vi stiamo portando in un viaggio nell'orrore, vi stiamo raccontando la vita di Shin Dong-hyuk, se vita possiamo chiamarla. È un giovane esule nordcoreano, l'unico prigioniero al mondo a essere nato e poi evaso da un campo di internamento nordcoreano, l'unico ad essere sopravvissuto. Grazie a lui oggi si conosce la realtà di quello che succede veramente all'interno di questi lager dell'orrore e qual è la terrificante situazione dei prigionieri politici in Corea del Nord. Nel nostro racconto siamo arrivati a un passo cruciale della sua vita. Lui ha 13 anni e secondo quelli che sono i regolamenti del campo 14 dove lui è nato, secondo gli indottrinamenti del regime che propugna la delazione come l'unico rapporto possibile tra i detenuti e non solo, anche tra la popolazione, diciamo così, libera, Shin Dong-hyuk ha denunciato la madre e il fratello perché li ha sentiti parlare di un piano di fuga. I due vengono uccisi come prevede la regola regola del campo. E lui non solo non prova alcun dolore o pentimento perché lo hanno educato così, lui pensa che sia giusto e si aspetta adesso il premio che di solito viene riconosciuto a chi compie il suo dovere, quello che gli hanno fatto credere sia il suo dovere, cioè fare la spia. Le cose non vanno così perché le guardie pensano che anche lui avesse intenzione di fuggire, e questo è il racconto di quello che succede dopo. C'era una stanza, una specie di cella all'interno del campo. Era lì che avvenivano le torture. La prima volta che ci entrai avvertii immediatamente un'atmosfera terrificante. Fui portato dentro. Le guardie, senza fiatare, mi legarono insieme i polsi e le caviglie e mi appesero al soffitto. Poi misero sotto di me un braciere con del carbone e lo accesero. Soffiavano per far salire le fiamme. Iniziai a sentire sempre più caldo e poi iniziò a bruciare. Potevo annusare l'odore della mia pelle che bruciava. Iniziai a urlare forte e a chiedere scusa alle guardie. Li pregavo che mi perdonassero. Vi avevo avvertiti che questa non era una puntata facile, e i racconti di Shin Dong-hyuk sono quanto di più orribile si possa immaginare. Un ragazzino che viene torturato per mesi per fargli confessare un crimine che non esiste, ma anche per stroncare in lui qualsiasi velleità di ribellione. Lui non è un ribelle, lui è inconsapevole del mondo esterno, non sa cosa ci sia fuori, non sa di vivere in un incubo, crede che il mondo sia così, continua a crederlo per anni, 10 lunghissimi anni dei quali lui ha un solo terribile ricordo: la fame. Lui non conosce altro cibo che la zuppa di cavolo, il mais, oppure gli insetti, delle rane, dei topi che quando è fortunato riesce a catturare. Non sa che nel mondo ci sono gli hamburger, la pizza, non sa che c'è la televisione, il telefono, non sa che può esistere un sentimento che possiamo chiamare amore, non sa neanche che esistono gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica, non sa neanche cosa sia la Corea del Nord, il suo stesso paese. Lui vive nella totale incoscienza di tutto, come del resto tutti i detenuti che sono nati lì e non hanno mai avuto contatti col mondo esterno. Continua a lavorare nella miniera di carbone, subisce le angherie delle guardie e viene punito se commette qualche errore, come quando fa cadere per sbaglio un macchinario per terra. Ve lo ripeto, e per questo gli viene tagliato un dito. Continua soprattutto ad avere la stessa insaziabile fame, quella che annebbia i pensieri, che stronca ogni velleità. Però siccome anche il sistema migliore, se così possiamo definirlo, l'organizzazione più perfetta può avere una falla, un anello debole, anche nel terrificante incubo del campo 14 si può commettere un errore, un piccolo dettaglio sbagliato che può cambiare tutto. Stop everything. Eh sì, e l'errore è questo, che al campo 14 arriva un detenuto che proviene dall'esterno, si chiama Park, e non si capisce come sia potuto succedere, perché i prigionieri del campo 14 non devono entrare in contatto con gente che conosce la realtà esterna, eppure capita un errore di smistamento, un colpo d'ala se volete. Park avrebbe dovuto andare in qualche altro campo di detenuti come lui, cioè gente nata e cresciuta in libertà, invece arriva lì e Shin Dong-hyuk lo conosce. È incuriosito da quest'uomo che non aveva mai visto, è incuriosito dalle cose che lui racconta. Lui descrive una realtà della quale Shin Dong-hyuk non sa nulla, non sa che esiste la Corea del Nord, che fuori c'è un mondo diverso. Quello su cui si concentra immediatamente la sua attenzione è il racconto di quello che la gente libera può mangiare. Eh sì, Park racconta che fuori le persone mangiano quando hanno fame e mangiano fino a quando non hanno più fame. Gli racconta che la gente lavora, che percepisce uno stipendio con il quale compra delle cose, e gli descrive i cibi che esistono. Gli parla di galline, di manzo, di riso, di bevande, di dolci. E tenete presente che Park sta descrivendo la realtà della Corea del Nord, non di un paese sviluppato, c'è la povertà, ma comunque è qualcosa di indescrivibile ed inconcepibile per uno che è nato e vissuto all'interno di un campo di concentramento. Insomma, i racconti di Park cambiano completamente la sua visione del mondo. Se prima non aveva mai neanche pensato alla fuga, perché era convinto che fuori fosse uguale a dentro, adesso le cose sono diverse. Adesso lui fuori vuole andarci a tutti i costi. Non ho deciso di fuggire avendo un programma preciso. Ho deciso di fuggire dal campo di concentramento solo dopo aver sentito che fuori le persone potevano mangiare quando volevano e quanto volevano. Nel campo non potevo mangiare quello che volevo e quando volevo, ma solamente quello che mi veniva conferito dalle autorità. Ho deciso di fuggire per mangiare bene. Il giorno della fuga ho pensato: questa sera io mangio finché non ne posso più. Se mi catturano, se mi fucilano, non fa niente. Io stasera mangio. Vi rendete conto? Decidere di scappare con la quasi certezza di essere uccisi, ma tentare lo stesso perché ha in mente una cosa sola: mangiare. La libertà per Shin Dong-hyuk ha la forma di un pollo arrosto. E i due, perché anche Park decide di evadere, iniziano a pensare a come fare. E l'occasione si presenta il 2 gennaio del 2005, perché vengono assegnati alla raccolta di legna da ardere nei pressi della recinzione elettrificata del campo. E la coppia aspetta il momento per eludere la sicurezza, tenta la fuga. Park prova per primo, rimane folgorato da una scarica elettrica potentissima. A quel punto Shin Dong-hyuk usa il corpo del compagno come una specie di messa a terra, scavalca la recinzione, anche se si ustiona gravemente a una gamba. Comunque ce la fa. Fuga rocambolesca, scappa in Cina, arriva fino a Shanghai, dove raggiunge l'ambasciata della Corea del Sud, e poi si trasferisce a Seul, dove prende contatti con un'associazione per i diritti umani. E la sua storia diventa di dominio pubblico e lui comincia a girare il mondo raccontando l'orrore dei campi di concentramento della Corea del Nord. Di recente il Washington Post ha scritto che Shin Dong-hyuk avrebbe ammesso di aver alterato alcuni dettagli del suo racconto, esagerando gli aspetti più cruenti. Questo ha creato scalpore. Nell'articolo si arriva perfino a mettere in dubbio la veridicità dell'intero racconto, ma le sue testimonianze concordano con quelle di altri prigionieri che nel frattempo sono fuggiti da altri campi. Poi c'è il suo corpo martoriato con le bruciature e le menomazioni subite. E tutto questo parla per lui. Bisogna ricordare semmai che il padre di Shin Dong-hyuk è prigioniero tuttora in un campo nordcoreano, e quindi è probabile che lui, come dire, rallenti un pochino, tolga il piede dall'acceleratore per paura di ritorsioni nei confronti di suo padre. A questo punto ho voglia di parlare con un mio carissimo amico, ma soprattutto con una persona che ha conosciuto, che sa più cose di me di Shin Dong-hyuk, e quindi lo introduco. Davide Di Leo, in arte Busta. Buongiorno carissimo. Eccoci qua. Siamo reduci da una puntata molto dura, molto difficile da raccontare, anche per la, come dire, la assurdità delle cose che io ho dovuto dire. Ma tu aggiungi qualcosa. Intanto, quando e come hai saputo di lui, di Shin Dong-hyuk, dell'esistenza di questo ragazzo? L'ho saputo perché il libro in Italia è stato pubblicato da Codice. Sì. E i ragazzi di Codice, che sono qui di Torino ed è una delle case editrici più deliziose che ci siano, mi hanno chiamato perché volevano, insomma, un contraltare verosimilmente molto più leggero, però in realtà non che servisse, come dire, portare una cruzzata di pop nel contesto, ma comunque mi hanno chiesto se avevo piacere di presentarlo, e quindi ho accettato naturalmente subito dopo aver saputo ed essermi anche solo vagamente informato. Mi è arrivato il libro, abbiamo letto e poi ci siamo incontrati uno o due giorni prima, ed è stata un'esperienza come potete immaginare piuttosto clamorosa. Raccontami. Intanto lui è una persona che non avrà mai una vita normale, temo. No, lui quello che dice, che racconta, è che comunque vive ancora adesso con degli incubi che noi non possiamo neanche immaginare. Dopodiché è felice perché è sposato, ha una moglie bellissima con cui hanno una vita adesso fortunatamente meravigliosa, dove si amano moltissimo, e questo è davvero un supporto alla vita strepitoso. Dopodiché la cosa che mi ha impressionato di più, e ormai sono passati 2 o 3 anni credo, è lo sguardo che ha. Io non ho mai visto un uomo con gli occhi così neri, ma è proprio, è un nero, è una condizione non tanto, come dire, cromatica, ma è veramente un traslato dell'anima e di quello che ha visto, perché non ho mai visto una profondità così incredibile, e c'è questo buco negli occhi che è una sensazione, è davvero alienante. Sono quelle 2 o 3 cose che mi porto dietro nella vita in generale, in contesti diversi, però sicuramente quegli occhi lì non li ho mai visti a nessuno. Senti, ma lui quando parla di queste cose ne parla, come dire, il senso è liberatorio o è doloroso continuare a ripetere? E in pratica lui adesso, come dire, di mestiere racconta queste cose. Io credo di aver compreso che lui lo fa per dovere, nel senso, certo, che è un dovere di coscienza per lui raccontare quello che gli è successo. Naturalmente il fatto ha cicatrici così profonde che è inevitabile che, nonostante tu le, anche se le racconti, come dire, non le curi, non vengono lenite e non vengono amplificate. Comunque lui vive una situazione psicologica, vive, io non sono psicologo, però suppongo sia veramente molto difficile, ma quello che mi diceva è che questa si sente addosso questo dovere di raccontare veramente come stanno le cose. Naturalmente lui è arrivato da un contesto in cui il mondo era tutt'altro, e quando ha fatto la scoperta del mondo occidentale, certo, comunque di quello civilizzato, già solo arrivare in Corea del Sud è stato, certo, uno shock, non si può definire neanche positivo, tant'è che lui lo definisce adesso naturalmente positivo, però all'inizio non capisci, perché ti ribaltano, certo, hai un codice comportamentale e affettivo completamente diverso certo, tutti noi, ed è una sensazione assurda. Quindi il bene non è il bene, il male, cioè devi imparare a conoscere i sentimenti che sono condivisibili con gli altri esseri umani, perché in quella nazione dove è nato lui e soprattutto nel contesto del Gulag è tutto invertito, ma forse neanche invertito, è un mondo parallelo, anaffettivo, un mondo, sì, totalmente, è un mondo esatto, in cui poi lo dice chiaramente nel libro, dove non esistono i valori che non siano il valore della sopravvivenza, passando attraverso una serie di cose. Quindi conoscere il rispetto, il saluto, il farsi abbracciare, l'essere umano, cioè l'essere in, certo, quanto verbo umano, è una roba che per lui è stata traumatizzante, forse traumatizzante meno, ma altrettanto rispetto a come aveva vissuto. Certo, dove vive lui adesso? Lui vive a Seul. Guarda, vive a Seul, però naturalmente gira il mondo. Certo. Sì, ma è incredibile, uno degli incontri più potenti che io abbia potuto avere nella mia vita. Davide, sono grazie per avermi aiutato in questa giornata che per me è stata particolarmente complessa, dolorosa e difficile, perché raccontare questa storia non è stato semplice. Ma io, guarda, ti ringrazio, grazie dell'ospitalità. Penso che una storia così valga veramente la pena di essere raccontata, non tanto per, come dire, le gesta eroiche, perché poi alla fine di eroismo, di sopravvivenza si tratta tutto, però per far capire magari a qualcuno in più che il mondo ha una varietà di microclimi emotivi, sì, no, e comportamentali e morali, che è incredibile, basta veramente pochissimo per ritrovarsi dall'altra parte. Quindi la storia contemporanea, la storia appena passata, vale sempre la pena di essere raccontata. Quindi grazie a te. Grazie Davide. Ci sono vite terribili a decine, a migliaia, a centinaia di migliaia, vite delle quali noi sappiamo poco, e anche quando lo sappiamo non sappiamo o non vogliamo fare nulla per queste persone. Il colpo d'ala del nostro protagonista è stato quello di essere riuscito a scappare da questo orrore e a parlare di questo orrore, e noi non possiamo far altro che raccogliere una testimonianza che, ahimè, stanno raccogliendo in pochi. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure al nostro sito, oppure andate sui miei Facebook, sui miei Twitter, sui miei social, su quelli del Falco e Gabbiano, su quelli di Radio 24, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.